Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. È morto a poco più di 60 anni Gianroberto Casaleggio, fondatore del Movimento 5 Stelle e ombra politica e di comunicazione di Beppe Grillo. I funerali saranno giovedì. Un dossier anonimo sul capo della Marina Militare De Giorgi, indagato a Potenza, spedito alla procura e finito sui giornali. Si parla di feste, vita lussuosa, fatti inesistenti, replicano d'allarma. Al Brennero è in corso i lavori per la barriera per controllare i flussi di migranti. Non è la soluzione, dice la Commissione Europea, controlli necessari e giusti, replicano da Vienna. Retata nel clan Spada a Ostia, sul litorale romano, estorsioni, una gambizzazione, ma c'era anche la gestione delle case popolari, 10 gli arresti. Come d'attese salta Mihajlovic, il Milan cambia allenatore, si affida al suo ex centrocampista e oggi allenatore della Primavera, Christian Brocchi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Potete scriverci se avete qualcosa di più articolato da dire a effettogiorno@radio24.it e poi c'è il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno. In apertura dunque ci occupiamo di quello che è successo stamattina, della notizia arrivata appunto stamattina presto e riguarda la morte di Gianroberto Casaleggio, una delle due anime del Movimento 5 Stelle, probabilmente quella più importante dal punto di vista ideologico, per così dire, dell'organizzazione. Iniziamo da qua, iniziamo dalla cronaca appunto con la nostra Marta Cagnola che si trova davanti alla clinica dove è morto Casaleggio. Marta, buongiorno. Buongiorno Simone, sì, è morto questa mattina alle 7 qui all'Istituto Auxologico di Milano Gianroberto Casaleggio, come dicevi, cofondatore del Movimento 5 Stelle. Malato da tempo, era già stato operato d'urgenza al cervello nell'aprile del 2014 e avrebbe compiuto 62 anni il prossimo 14 agosto. In questo ospedale, dove ora è stata allestita la camera ardente, Casaleggio era ricoverato da 2 settimane con un nome diverso da quello reale per tutelare la sua privacy. Secondo quanto comunica Beppe Grillo, i funerali si celebreranno giovedì 14 aprile. A breve saranno comunicati l'ora e il luogo, ha spiegato in un tweet il leader del Movimento 5 Stelle. Presidente della Casaleggio Associati, società informatica editoriale, dopo gli inizi alla Olivetti, si occupava di consulenze in materia di strategie di rete e dal 2005 curava, insieme al figlio Davide, il blog appunto di Beppe Grillo. Solo pochi giorni fa aveva commentato le indiscrezioni sul suo stato di salute. Io non mollo, aveva scritto, e continuerò a battermi insieme a milioni di italiani onesti fino al successo del movimento che ho contribuito a fondare. Chi sperava il contrario può mettersi l'anima in pace. E per ora qui dall'Istituto Auxologico di Milano è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Marta Cagnola per questo aggiornamento. Naturalmente sono molte le reazioni politiche, i messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal Presidente della Repubblica, ma anche dall'interno del Movimento 5 Stelle, anche dai simpatizzanti come per esempio Dario Fo. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, il primo a twittare e a salutare l'amico cofondatore del Movimento 5 Stelle è stato proprio Beppe Grillo, che ha lanciato l'hashtag Ciao Gianroberto. Migliaia di militanti stanno scrivendo sul blog in una sorta di camera ardente sui social. Hai lottato fino all'ultimo, ha scritto Grillo, mentre qui in Transatlantica a Montecitorio non c'è nessuno dei grillini, ma sono tutti riuniti nell'ufficio stampa del gruppo. Ciao, scrive sul blog Luigi Di Maio, mentre Alessandro Di Battista piange e dice che è stato un grande. I parlamentari grillini comunque non chiedono nessuna modifica al calendario, voteranno per le riforme, cioè contro le riforme istituzionali questo pomeriggio. Ci ha lasciato un sognatore, scrive il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, e come dicevi tu da studio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si dice particolarmente colpito dalla prematura scomparsa di Casaleggio, intellettuale, editore, protagonista politico, innovativo e appassionato. Dario Fo parla di perdita enorme per il movimento, dalle altre parti, dalle altre forze politiche il cordoglio del ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio, che dice la politica perde uno dei suoi protagonisti, e di Beatrice Lorenzin, che definisce Casaleggio come l'uomo che ha rivoluzionato la comunicazione politica del nostro paese. Per il momento qui dalla Camera è tutto, a te Simone. Ti ringrazio, grazie ad Elisabetta Fiorito, e della figura di Casaleggio torneremo a parlare tra poco, e lo faremo insieme ad Enrico Sassoon, che per 12 anni è stato socio di Gianroberto Casaleggio, prima nella WebEgg e poi nella Casaleggio e Associati, ha lavorato appunto insieme a lui, e insomma ci faremo raccontare un po' che cosa rappresenta questa figura, e cercheremo anche di capire da un punto di vista politico che cosa può succedere adesso che il movimento perde, per così dire, due teste: da una parte Gianroberto Casaleggio, che appunto è scomparso questa mattina, e dall'altra Beppe Grillo, che ha dichiarato pubblicamente che vuole allontanarsi dal movimento. Intanto ci spostiamo a parlare delle inchieste di Potenza, quelle che riguardano il petrolio appunto e l'inquinamento in Val d'Agri, inchieste che si arricchiscono di un fatto nuovo, un dossier anonimo inviato alla procura e al governo. Nel frattempo oggi dovrebbe arrivare la decisione del riesame sugli arresti per il filone ambientale dell'inchiesta. Sentiamo. Sarà interrogato venerdì l'ammiraglio De Giorgi. Il capo di Stato Maggiore della Marina sarà sentito dai pubblici ministeri potentini nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato, con Gianluca Gemelli, compagno dell'ex ministro Guidi. Fatti inesistenti, così intanto in una nota la Marina Militare commenta il dossier anonimo giunto tra l'altro proprio alla procura di Potenza. Un anonimo, appunto, che dice di far parte della Marina, racconta di festini a bordo della nave Vittorio Veneto con De Giorgi, che in un'occasione attende gli ospiti in groppa ad un cavallo bianco, e ancora di un uso disinvolto degli elicotteri della Marina, di cene in ristoranti di lusso. Tra le accuse a carico di De Giorgi, tutte da verificare, le commesse autorizzate per ristrutturare i salottini e il quadrato ufficiali delle navi. Nel dossier si parla anche della gestione del personale, di trasferimenti e punizioni promossi e penalizzati in base alla loro fedeltà. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nell'inchiesta sul petrolio in Basilicata la parola oggi passa al Tribunale del Riesame, i cui giudici dovranno decidere se confermare o meno le misure cautelari emesse dal GIP nei confronti dei 5 dipendenti dell'ENI che si trovano agli arresti domiciliari dal 31 marzo. Sarà valutata venerdì invece la posizione dell'ex sindaco di Corleto Perticara, la democratica Rosaria Vicino, anche lei ai domiciliari. Dal riesame oggi è attesa anche una pronuncia sul ricorso presentato dall'ENI, che vorrebbe riprendere la produzione di petrolio nello stabilimento di Viggiano, sospesa sempre dal 31 marzo. La compagnia ha chiesto anche un incidente probatorio che dimostri la correttezza delle modalità di funzionamento dell'impianto, che secondo la procura invece potrebbe smaltire in modo illecito gli scarti di produzione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso ci spostiamo in Iran, dove in visita il presidente del Consiglio Renzi, e già iniziano ad arrivare notizie di accordi raggiunti dal punto di vista industriale e commerciale. Sentiamo. Lo ha detto prima di partire, lo ha ribadito avendo accanto il presidente Rouhani. L'Italia è il primo paese a tornare in Iran dopo la fine delle sanzioni, rinnovando una lunga storia di amicizia. 36 gli impegni firmati: industria, turismo, trasporti. Ferrovie dello Stato, per esempio, ha siglato un accordo sull'alta velocità che vale 3,5 miliardi. Collaborazioni in campo scientifico, tecnologico e nel settore bancario, sostenute dalla Cassa Depositi e Prestiti e dalla SACE. La fine delle sanzioni è un passaggio storico, non solo per l'Iran, ma per tutta la regione e per tutta l'Europa. Una vicinanza ribadita anche da Rouhani, che non ha dimenticato di sottolineare come anche sulle sanzioni l'Italia ha assunto le posizioni più equilibrate. L'Italia torna a essere il primo partner commerciale per Teheran. Sul fronte geopolitico Renzi ha parlato della necessaria e fondamentale collaborazione laddove ci sono guerre ed emergenze umanitarie. Ha ricordato che l'Italia ha aperto con l'Iran un tavolo sui diritti umani e poi ha concluso. Ci sono persone che confondono la fede nell'Islam con il terrorismo e la violenza. È un grave errore che va combattuto a livello innanzitutto culturale. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di visite di Stato, il ministro degli esteri Gentiloni è in queste ore a Tripoli, primo rappresentante europeo dall'arrivo del nuovo governo libico nella capitale, Libia che diventa centrale anche per contenere il flusso di migranti e profughi, le cui prospettive di aumento hanno spinto, come sapete, l'Austria ad iniziare ad erigere una sorta di barriera al Brennero. La cosa non è disgiunta e anche questo ve l'abbiamo raccontato dal fatto che tra due settimane a Vienna si vota per eleggere il Presidente della Repubblica. Il servizio. Necessarie e giuste, così il cancelliere austriaco Faymann definisce la recinzione con l'Italia al Brennero che Vienna ha deciso di costruire per contenere un'eventuale ondata di migranti. È assolutamente fuori discussione, ha detto, non fare niente e accogliere persone senza limiti e senza controlli. Di tutt'altro parere il commissario europeo all'immigrazione Dimitris Avramopoulos, che intervenendo durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo ha dichiarato che ciò che sta accadendo fra Austria e Italia non è la soluzione giusta. Tutto questo mentre nelle acque del canale di Sicilia centinaia di persone sono alla deriva partite dalla Libia su barche e gommoni, come spiega il comandante Filippo Marini della Guardia Costiera. 5 operazioni sono state concluse positivamente con il salvataggio di 595 migranti e al momento ci sono 9 operazioni che si stanno concludendo. Nella giornata di ieri invece 1850 il numero di migranti che sono stati complessivamente tratti in salvo sempre nel canale di Sicilia in 8 distinte operazioni di soccorso coordinate dalla Guardia Costiera. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo parlato del confine del Brennero, però c'è anche l'altro confine, quello del quale continuiamo a trattare in queste ore, ed è quello tra Grecia e Macedonia. Negli scontri di 2 giorni fa a Idomeni si è sparato ad altezza di bambino. Queste sono le parole di Loris De Filippi, presidente di Medici Senza Frontiere, a margine di una conferenza stampa. Negli scontri, ha detto, almeno 200 persone sono rimaste ferite da gas lacrimogeni e altre 37 da proiettili di gomma sparati appunto ad altezza. Non di uomo ma di bambino, almeno 3 bambini sono rimasti feriti da questi proiettili. Conferenza stampa nella quale Medici Senza Frontiere ha presentato un rapporto che riguarda la presenza degli immigrati in Italia. Si parla di baraccopoli a Foggia, di un palazzo occupato in pieno centro a Padova, 2 tra i più preoccupanti insediamenti informali, così vengono definiti. Su questo tema Valentina Furlanetto ha intervistato uno dei curatori del rapporto, Giuseppe De Mola. Noi stimiamo che almeno 10.000 persone vivono all'esterno del sistema di accoglienza istituzionale in queste condizioni di estrema precarietà e marginalità sociale. In alcuni siti ci sono anche minori. Mi fa un esempio dei 2 casi che l'hanno stupita di più fra quelli che ha visitato. Sicuramente le condizioni di alcuni insediamenti informali nelle campagne di Foggia. Medici Senza Frontiere ha incredibili condizioni di vita in cui queste persone sono costrette a vivere, le ha denunciate già nel 2004 la prima volta. Quindi stiamo parlando di 12 anni fa ed è stato triste in questa ricerca constatare che la situazione di queste persone non è assolutamente cambiata. Ecco, l'altro caso che mai mi sarei immaginato di trovare, vorrei citare il caso di Padova invece, pieno centro cittadino di fronte all'area della fiera, qui invece ci sono 2 palazzine occupate, e parliamo qui invece di un insediamento più piccolo di 60-70 persone, assolutamente tutte in regola con il soggiorno e quasi tutte appunto titolari di forme di protezione internazionale. In queste 2 palazzine non c'è neanche una doccia e per lavarsi hanno costruito una doccia con delle assi di legno e un tubo di gomma dentro nel giardino che circonda le 2 palazzine, quindi all'aperto e si lavano lì sia d'inverno che d'estate. Passiamo alla cronaca e andiamo a Ostia, sul litorale romano, che avesse dei forti problemi di criminalità organizzata, lo sapevamo. Oggi c'è stata un'operazione contro il clan Spada che ha portato a 10 arresti. Nelle intenzioni del clan Spada c'era il controllo del litorale romano, la supremazia criminale nel territorio a partire dalla gestione del business delle case popolari. Erano loro che occupavano abusivamente gli alloggi di Ostia e li assegnavano le famiglie che pagavano il clan. Per farlo, gli affiliati del gruppo già noto alle cronache perché è ritenuto al centro dei traffici di stupefacenti, gambizzava i componenti dei clan rivali. È un duro colpo alla criminalità organizzata nella capitale. 10 gli arresti scattati stamattina all'alba. La direzione distrettuale antimafia che ha condotto le indagini contesta i reati di lesioni personali, tentata estorsione, illecita detenzione di armi e l'aggravante del 416 bis, l'associazione di stampo mafioso. 40 gli episodi di minacce e danneggiamenti negli ultimi 5 anni nei confronti dei componenti del gruppo rivale Baficchio Galleoni. Il procuratore aggiunto della DDA, Michele Prestipino. Un risultato particolarmente importante perché aggiunge un tassello significativo alla ricostruzione di uno scenario criminale come quello di Ostia, che è uno scenario, come tutti sappiamo, particolarmente complesso. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E parliamo di calcio adesso. La notizia era in parte attesa, però è stata abbastanza brusca, quantomeno per Mihajlovic, Dario Ricci, l'estromissione dalla guida del Milan, no? Eh sì, il nuovo timoniere Christian Brocchi era lo scenario che tutti avevano cominciato a immaginare già da qualche settimana, se non mesi, per il prossimo anno, perché Brocchi sta facendo molto bene con la primavera. Ma davvero l'accelerazione di ieri sera e fino ad arrivare all'esonero ufficiale di questa mattina va ricondotta alla diretta volontà del presidente Berlusconi, che con Mihajlovic non ha mai legato, e soprattutto anche per quanto riguarda il gioco del Milan non è mai rimasto soddisfatto di un calcio che mal si adattava alle corde del presidentissimo. In più Mihajlovic ha compiuto anche più volte il reato di lesa maestà, rispondendo a volte anche in fuorigioco al presidente. Da lì il logoramento di questo rapporto, l'esonero e Christian Brocchi, che oggi guiderà il suo primo allenamento da nuovo allenatore del Milan. Da ricordare, stasera, mentre noi siamo impegnati in queste vicende certo non banali, c'è la Champions che va avanti. Allora Manchester City, Paris Saint-Germain ripartono dal 2-2 dell'andata, il Real Madrid cerca la rimonta, sarebbe l'ennesima della sua storia, contro il Wolfsburg al Bernabeu, tedeschi che partono forti del 2-0. E grazie Dario Ricci per questo aggiornamento. Si apre oggi un appuntamento importante, così chiudiamo questa prima parte della trasmissione. Si apre un appuntamento importante per Milano, e non solo per Milano, il Salone del Mobile. Arrivato alla sua 55esima edizione, il Salone 2016 arriva in una fase in cui si intravedono spiragli di ripresa economica anche per questo settore. L'arredamento italiano chiude infatti il 2015 con un fatturato di quasi 25 miliardi di euro, in crescita del 3,4% rispetto al 2014. Un aumento questo che beneficia per la prima volta negli ultimi 7 anni di un segno positivo sul mercato interno, più 1%. La ripresa però deve andare di pari passo con le riforme, come spiega il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, presente oggi all'inaugurazione del Salone del Mobile. Per agganciare una ripresa forte abbiamo bisogno di incrementare i consumi interni. Questo lo si può fare soltanto se la politica e il governo con determinazione porteranno avanti le riforme, che sono riforme politico-istituzionali, riforme amministrative, riforme di semplificazione della pubblica amministrazione, cioè tutto quello che è il piombo sotto le ali del manifatturiero italiano. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. Adesso sentiamo cosa succede sulle strade, poi nella seconda parte della trasmissione parleremo, come già vi dicevo, con Enrico Sassone. Ascolteremo un'intervista che abbiamo realizzato, Enrico Sassone, che è stato a lungo socio di Gian Roberto Casaleggio, per farci raccontare un po' che figura è stata e anche quali possono essere le prospettive che si aprono anche per il Movimento 5 Stelle. Poi ci occuperemo del referendum cosiddetto delle trivelle, poi lo sapete che in realtà non è propriamente sulle trivelle, non ospiteremo il fronte del sì, il fronte del no o il fronte dell'astensione, ma semplicemente cercheremo di andarvi a spiegare su cosa votiamo. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. È morto a poco più di 60 anni Gian Roberto Casaleggio, fondatore del Movimento 5 Stelle, ombra politica e di comunicazione di Beppe Grillo. I funerali saranno giovedì. Un dossier anonimo sul capo della Marina Militare De Giorgi, indagato a Potenza, spedito dalla procura e finito sui giornali. Si parla di feste, di vita lussuosa, fatti inesistenti, replicano d'allarma. Al Brennero in corso i lavori per la barriera per controllare i flussi di migranti. Non è la soluzione, dice la Commissione Europea. Controlli necessari e giusti, replicano da Vienna. Retata nel clan Spada Osia sul litorale romano, estorsione e una gambizzazione, ma c'era anche la gestione delle case popolari. Sono stati 10 gli arresti. E prima di andare a sentire, appunto, come vi dicevo, l'intervista che abbiamo realizzato in merito alla figura di Gian Roberto Casaleggio, che è scomparso questa mattina, c'è una risposta che voglio dare ad un ascoltatore che ci scrive via SMS, si chiama Marco, e ci dice: però ricordiamo che è vero che l'Austria sta in questo momento chiudendo i confini, e su questo ovviamente, aggiungiamo noi, ci sono anche delle ragioni politiche, perché si vota per le presidenziali tra un paio di settimane, ma è vero anche che l'Austria ha dato una grande accoglienza ai rifugiati. Vi do qualche dato per dare la misura, perché è giusto ricordare anche questo. Nel 2014 accoglieva 6,6 rifugiati ogni 1000 abitanti contro gli 1,5 dell'Italia. Questo per dare la misura di come si è mossa l'Austria in questi anni. Come si diceva, andiamo a sentire Enrico Sasson, che per 12 anni è stato socio di Gian Roberto Casaleggio. Con lui abbiamo parlato tanto della figura di Casaleggio, dei motivi poi della loro separazione, alla base di questi c'è stato anche il Movimento 5 Stelle, e poi di quello che può succedere al Movimento 5 Stelle adesso che le due teste del Movimento sono Gian Roberto Casaleggio, che è scomparso, e dall'altra parte Beppe Grillo, che ha deciso in parte di allontanarsi dal Movimento e tornare al teatro. Sentiamo. Abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 1998-99 ed è durata fino al 2012, quando ho dovuto, per motivi di forza maggiore, lasciare, diciamo, l'iniziativa di Casaleggio Associati. Quindi direi che è stato un rapporto molto lungo e costruttivo per molti anni, anche se personalmente la scelta politica, ossia quella della non solo fondazione ma anche portare avanti il Movimento 5 Stelle assieme a Beppe Grillo, non l'ho mai condivisa, e quindi su questo poi ci siamo lasciati nel 2012 in maniera, non dico traumatica, ma abbastanza decisa. Con la Casaleggio Associati ha indubbiamente anticipato molti temi, e anche di parecchio tempo, quindi con molta lucidità. E da questo punto di vista la sua capacità, più che imprenditoriale, direi proprio da un punto di vista dell'acutezza professionale, è stata piuttosto rilevante. Acutezza professionale che ha dimostrato anche nello strutturare politicamente un movimento come il Movimento 5 Stelle, no? Sì, adesso la parola strutturale è forse una, così andrebbe un momentino affrontata nel suo significato. Con Roberto abbiamo molto spesso parlato della strutturazione del Movimento 5 Stelle. Ho sempre pensato che una strutturazione andasse creata. Nella sua visione il movimento doveva rimanere movimento, quindi senza una organizzazione e senza un programma che definisse il movimento e i suoi obiettivi. Su questo io credo ci sia stato veramente così, una visione un po' particolare. Personalmente non ho mai condiviso né l'una né l'altra di queste due idee, e tutt'oggi credo che, se in futuro, insomma, il movimento dovrà avere un ruolo, il fatto che sia un'organizzazione molto fluida e sostanzialmente il programma venga creato di momento per momento, e quindi più reagendo che non agendo, più con un atteggiamento di critica e un atteggiamento di correzione di posizione altrui, che non con una propria capacità autonoma di creazione di proposte, idee, programmi, appunto, insomma, credo che tutto questo rappresenterà un problema, e nella visione di Roberto Casaleggio questo invece è sempre stato un punto qualificante. Credo che ancora oggi sia un punto di debolezza, e che credo che il futuro indicherà se effettivamente è così, anche perché con l'assenza di Casaleggio e con il distacco di Beppe Grillo adesso il movimento si troverà sicuramente a cefalo, con dei personaggi che dovranno dimostrare di avere la statura dei politici. Secondo te, dall'idea che ti sei fatto, e vedendo anche negli anni la nascita e la crescita di questo movimento, anche nelle mani dello stesso Gian Roberto Casaleggio, ti sembra che possa sopravvivere a Casaleggio, anche per l'importanza che ha avuto anche nella struttura della comunicazione e via dicendo? È veramente una domanda alla quale è difficilissimo dare una risposta in questo momento. Il distacco contemporaneo a questo punto di Grillo e di Casaleggio rappresenta un problema molto grave, molto forte, perché è difficile dare una valutazione oggi sul Movimento 5 Stelle in quanto autonoma da queste due figure di riferimento. Certo, non stiamo parlando di Carlo Marx o di Giulius Evola, voglio dire, né da destra né da sinistra. Quindi c'è una certa incertezza, sia di tipo, chiamiamolo fra virgolette, molto fra virgolette ideologico, sia appunto dal punto di vista organizzativo. Chi oggi è al vertice nelle varie situazioni del Movimento 5 Stelle, accreditato di una presenza politica molto forte dai sondaggi, dovrà veramente dimostrare di poter portare avanti questo movimento senza quelle che sono state le teste pensanti che lo hanno promosso, varato e affermato. È veramente una scommessa. E questo era Enrico Sassoon, direttore della Harvard Business Review in Italia e appunto ex socio di Gianroberto Casaleggio. Come si diceva, adesso ci occupiamo del referendum sulle trivelle, cosiddetto referendum sulle trivelle, che in realtà proprio sulle trivelle non è, e lo facciamo, lo vogliamo fare da un punto di vista, come dicevamo, strettamente informativo, andare a capire su cosa andiamo a votare, e lo facciamo con Carlo Andrea Bollino, che è docente di economia dell'energia alla Luis Guido Carli di Roma. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e ai nostri ascoltatori. È stato tra l'altro presidente del gestore di servizi elettrici, gestore e del gestore della rete di trasmissione nazionale, e in questa occasione tante volte l'abbiamo ospitata su Radio 24 peraltro. Sì. Allora Bollino, chiariamo subito una cosa: noi in realtà non andiamo a votare sulle trivellazioni. No, il problema riguarda alcune piattaforme, nel Mar Adriatico specialmente, che si occupano di estrazione già esistente di gas, quindi non parliamo di petrolio e non parliamo di trivellazione, punto e a capo. E questo è il primo punto fondamentale. Se non erro, sono adesso nel dettaglio 7 piattaforme in Sicilia, 5 in Calabria, 3 in Puglia, 2 in Basilicata, 2 in Emilia Romagna, una nelle Marche e una in Veneto. Prevalentemente metano, non ce n'è nemmeno una che ha a che fare col petrolio? Praticamente. Noi votiamo sulle concessioni date alle compagnie. Allora, io vorrei fare un paragone molto semplice. Noi dovremmo votare sul fatto che queste concessioni date nell'anno X per un periodo lungo che doveva in tempi normali coprire, diciamo, il recupero degli investimenti, vorrebbero essere allungate. Ora chiediamoci perché il legislatore ha chiesto la prolunga di queste concessioni. È un po' come, vista la crisi economica che ha congelato il valore economico per tanti anni, perché dal 2008 al 2016, diciamo, l'energia in Italia è stata ferma, così come la produzione, l'occupazione e il reddito, noi stiamo prolungando la vita economica di questi impianti in maniera tale da dargli un valore economico. È come se avessimo detto, secondo me giustamente, invece che dire che la cassa integrazione dura solo 2 anni e la crisi, che è durata 6, avrebbe messo tanta gente sul lastrico, abbiamo allungato il periodo della cassa integrazione per tanti operai in maniera tale da potergli dare la possibilità di superare una crisi eccezionalmente più lunga del previsto. Ecco, termini della questione. Ecco però, professor Bollino, noi dobbiamo decidere se prolungare di fatto, se mantenere il prolungamento delle concessioni, esattamente, oppure limitarlo, fino all'esaurimento dei giacimenti, o appunto... Esatto, che vuol dire sfruttare dell'energia che abbiamo in casa, cioè italiana, invece che comprare all'estero, dando lavoro in qualche modo alle maestranze italiane. Ok, e questo è il quadro per quello che andiamo a decidere. Quindi non si decide su nuove trivellazioni, perché queste sono escluse dalla legge? Assolutamente no, la legge è un provvedimento, diciamo, mirato e tampone, non è una legge quadro importante, tra virgolette, è mirato e tampone per questa situazione. E sono comunque escluse nuove trivellazioni entro le 12 miglia, cioè su questo non si vota. Assolutamente. Su non questo si vota perché non è nello stato delle cose permettere ulteriori trivellazioni dentro le 12 miglia, che potrebbero compromettere il paesaggio, l'ecosistema e altri problemi delicati delle nostre coste. Il provvedimento appunto riguarda solamente 21 piattaforme già costruite entro le 12 miglia, per le quali, come ho detto, la vita utile è stata in un certo senso mangiata nei primi anni della concessione a suo tempo cortata dalla crisi economica, perché la crisi economica del 2008-2016, che ricominciamo a crescere adesso, è da oggi che ritornano a essere economicamente valide. Quindi, Mi chiude solo con una cosa: la vita utile, perché c'è stato dibattito anche su questo, di queste piattaforme di estrazione, perché la trivellazione in quel caso c'è già stata, di queste piattaforme di estrazione è breve, tra l'altro, no? Beh, insomma, sì, abbastanza, comunque è tra i 10, si calcola, non è in secoli, non è in tanti decenni, come tutti gli impianti tecnologici, che quindi hanno poi obsolescenza, usura e problemi di smantellamento, è comunque nell'ordine degli anni, decine d'anni massimo. Ultima domanda, professor Bollino, perché ce lo chiede un ascoltatore via SMS. Lei ha detto praticamente tutte del gas, ma ce n'è qualcuna petrolifera quindi tra queste? Allora, in questo momento mi sfugge, diciamo, la composizione tra gas e petrolio, perché alcuni di questi sono associati. Comunque diciamo che nella massima parte sono gas. Nella massima parte? Sì, anche perché è il gas che è la nostra risorsa principale energetica in Italia, a parte il petrolio della Val d'Agri, diciamo, no? Anche in Val Padana, la maggior parte del nord Italia, la tradizione fu il gas. La ringrazio, grazie al professor Carlo Andrea Bollino per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede in borsa e poi dopo vi racconteremo una storia di giustizia che abbiamo pescato dal Corriere della Sera oggi e che racconta di un uomo che ci ha messo tra tribunali, TAR, Consiglio di Stato 20 anni a veder riconosciute le sue ragioni e adesso c'è un comune, il comune di Stazzema, che gli deve, mi pare, 250.000 euro e che non sa da dove tirarli fuori. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: è morto a poco più di 60 anni Gianroberto Casaleggio, fondatore del Movimento 5 Stelle. Un dossier anonimo sul capo della Marina Militare De Giorgi, indagato a Potenza, spedito alla procura e finito sui giornali, fatti inesistenti e replicano d'allarma. Al Brennero in corso i lavori per la barriera per controllare i flussi di migranti e scontro tra Bruxelles e Vienna. Retata nel clan Spada Ostia sul litorale romano, 10 gli arresti, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. E ora una storia che è tipicamente italiana. Siamo nel 1994, l'architetto Baldo Chioran viene assunto dal comune di Stazzema, è una storia che abbiamo pescato sul Corriere della Sera. Viene assunto dal comune di Stazzema, sta un anno di prova, dopodiché viene licenziato. Decide per una serie di motivi che adesso andremo, nei quali andremo a scavare per quanto ci rimanga poco tempo, che decide di fare ricorso. Bene, le sue ragioni sono state riconosciute nei giorni scorsi dopo 21 anni. Con noi il suo avvocato Paolo Bassano. Buongiorno avvocato e benvenuto. Buongiorno. Ma com'è possibile? Sono tempi fisiologici o patologici della giustizia amministrativa? Non mi dica fisiologici, 21 anni per veder riconosciute le sue ragioni, sinceramente è pazzesco. È partito che ne aveva quanti? 35, 36 e adesso ne ha 57, cioè più vicino alla pensione che alla maturità lavorativa. Direi proprio di sì. E come è stato possibile? Ma, il processo amministrativo si è articolato in due gradi. Per avere una sentenza del TAR sono occorsi 11 anni, altrettanti ne sono occorsi per avere una pronuncia sull'appello del Consiglio di Stato. 11 più 11 fa 22 anni. 22 anni. Ma insomma, no, non so se lei, che si occupa, immagino, di queste cose, no, non dico quotidianamente perché casi di questo genere sono fortunatamente abbastanza quanto di frequente avviene che i tempi siano così lunghi, soprattutto per quanto riguarda il Consiglio di Stato? Purtroppo la vicenda davanti al TAR può avere, la durata della vicenda davanti al TAR può avere delle spiegazioni, perché c'è stata una sovrapposizione fra una vicenda amministrativa e una vicenda penale. Non ne ha la durata del giudizio davanti al Consiglio di Stato, che si è protratto per 11 anni, nonostante che ci fosse stata una sospensione nel 2006 della sentenza del TAR e quindi fosse lecito attendersi che seguisse il giudizio di merito in tempi più brevi, ma sono state inutili tutte le istanze di prelievo e di anticipata fissazione, sono corsi 11 anni. Quindi sono voluti 11 anni, nel frattempo non ci sono state udienze, non c'è stato niente. 11 anni, ferma così. 10 anni fra il 2006 e il 2016, diciamo. Quasi 10 anni fra l'udienza in cui è stata accolta la sospensione della sentenza di primo grado del TAR e la sentenza con cui è stato respinto poi l'appello del Consiglio del Comune Stazzema. Il Comune di Stazzema adesso deve dei soldi al suo cliente, no? Loro hanno fatto un calcolo intorno al 1,5 milioni, sono disperati perché poi è un piccolo comune, insomma, non è che abbiano tanti soldi, quindi 1,5 milioni è una cifra pazzesca, mi pare che non sia così alta in realtà. È un calcolo pessimistico, perché il Consiglio è stato chiarito che dovranno essere detratte le retribuzioni che in questi 21 anni l'architetto Chioran ha percepito nella sua attività lavorativa come dipendente di una società che si occupava di source, di certificazioni per la partecipazione agli appalti pubblici. Il problema è che l'architetto Chioran ha lavorato solo dal 2001, perché è passato lunghi anni di disoccupazione, e poi si tratterà di vedere quali sono le differenze stipendiali. Sicuramente su questi 21 anni è rimasto disoccupato per 6, ha lavorato parzialmente per 15, bisogna vedere attraverso l'esame delle dichiarazioni dei redditi qual è la differenza. Sì. Del diritto a percepire. Ultimo punto, il Comune ha deciso di far ricorso, no? Sì, ma è un ricorso non contro l'architetto Chioran, ma contro lo Stato italiano, più che legittimo, perché effettivamente chiede di essere ristorato di tempi della giustizia che non sono conformi alle direttive europee. Ah, ok, quindi il Comune appunto ha deciso di fare ricorso contro lo Stato perché dice i tempi sono stati troppo lunghi, a questo punto tutti questi soldi che io devo all'architetto sono colpa dello Stato, mica colpa mia. Questo, sostanzialmente, sì. Sostanzialmente questa è l'idea del Comune. La ringrazio. Grazie avvocato Paolo Bassano per averci aiutato a raccontare questa storia appunto tipicamente italiana. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.